AM。 Gruppo, grandi musicisti. Del resto, qualche mese fa, in occasione della sua venuta in Italia, il cantante Yes l'abbiamo ospitato, ci ha anche suonato un pezzo dal vivo. Grande, grande personaggio, veramente grande personaggio. Vado a salutare Antonio da Firenze, ancora Giada, che mi scrive via SMS e mi dice: ciao gara, ho deciso che sabato 31, in concomitanza appunto con la nostra chiusura, faccio una mattata, prendo il treno prestissimo da Firenze, ok? Vengo a salutarvi e torno per andare al lavoro. Sarà una corsa, ma vale. Oh, grazie Giada, vabbè, che dire, siete veramente stupendi. Ancora Mirko mi dice: ciao Marco, gli Yes, e quindi ritorniamo a parlare di musica. Fanno il tour mondiale per il momento solo in America. Alle tastiere c'è il figlio di Rick Wakeman. Ma sabato si può entrare negli studi? E su questo, ragazzi, magari no, ecco, perché saremo qui tutti noi, tutto lo staff, ci sarà tutti gli ospiti, cioè tutti i DJ che hanno fatto la storia di questa radio nei 18 anni. E quindi, come capite, nonostante tutto, gli studi sono grossi, ma fino a un certo punto. E voi siete in tanti, e sarete forse in tanti, questo non lo so. O si fa entrare uno, si fanno entrare tutti, quindi non ci devono essere discriminazioni. Tutti non ci potete stare, se sarete sotto, come sembra, come ci scrivete, sarà nostro dovere scendere tra di voi di tanto in tanto e magari anche intervistarvi e poi mettere in onda qualcosa. Queste sono le idee che ci stanno venendo in questo momento, ok? E penso che capirete il tutto. Poi noi continuiamo con questa volta una mail. Roberto da Genova mi dice: ciao Marco, ti ascolto dai tempi di Radio Peter Flowers, siete veramente in tanti, questo mi fa piacere sapere che durante l'arco delle mie avventure radiofoniche mi avete seguito. Ho scoperto da poco che il 31 maggio ci accomuna sia per la rabbia e rammarico sulla vicenda della chiusura di Rock FM, sia per la nostra stessa data di nascita. Scrive: io ho 10 anni esatti dopo di te, mi spiace davvero che tale data coincida col mio giorno di nascita e anche il mio del resto, credo che lo ricorderò per sempre. E se chiedessimo a Clint Eastwood di acquistare Rock FM, anche lui è nato il 31 maggio, mi sa che è un tipo molto rock. Clint Eastwood è veramente grande, un must, ed è secondo me veramente rock, però mi sa che di Rock FM non sa nemmeno cosa sia, non so nemmeno che esista. Un augurio di rinascita a tutto lo staff e spero di risentirvi nuovamente on air anche dopo il 31, lo spero davvero. Grazie, grazie mille Roberto, salutiamo te e tutta la città di Genova e continuiamo con quest'altra bella canzone. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.

Creedence Clearwater Revival con le note di questa Molina che abbiamo ritrovato e riascoltato, c'è la reprise, facciamola ascoltare. E così se ne va a sfumare questo singolo, questo 45 giri, uno dei tanti successi dell'epoca per i Creedence con le note di Molina. Vado a salutare ancora Ale, che per quanto riguarda i Twisted Sister, poi in Tour de Force leggerò il tutto. Mi chiedono di nuovo se ci sarò all'Area Agency il 24 sabato. No, ci sarò il primo di giugno alla FOG di Firenze per la Toscana e poi all'Area Agency sarò insieme a Claudia il 6 di giugno, ok? Ancora un salutone ad Annalisa in quel di Imola, grazie naturalmente a te, ancora un grazie anche a Luisa, tante tante amiche, Carolina da Genova che ringrazia per aver proposto la canzone di George Thorogood e Lo Josephine, è bellissima e ha dato un tocco speciale alla mia giornata, questo ci fa piacere. Un saluto anche a Tony da Firenze che il 31 sarà a Torino per vedere una band, quindi passerà a prelevare la fidanzata da Milano e devierà anche qua sotto via Locatelli. Grazie Tony, naturalmente. Poi ancora un saluto anche a Gianfranco. Altre due canzoni in arrivo, poi avremo anche modo di leggere, andrò a prepararmi tutto il Tour de Force per questa giornata. Due grandi artisti, John Lennon il primo, il secondo è una band, ma l'artista primario è Jim Morrison. I hope someday you'll join.